Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mollo tutto e tutti. Corro a casa, prendo il necessario e mi fiondo in aeroporto. Montaggio del mezzo, controlli, acqua, cibo e siamo pronti a decollare. Sono Lorenzo, vivo a Verona, 47 anni e mi occupo di energie rinnovabili, ambiente e passo la parte del mio tempo libero più che posso in mezzo alla natura. Va un po' così, va che magari arriva un racconto di un argomento particolare in un anno e poi invece nel breve arco di tempo che separa due settimane, cioè martedì scorso da oggi, raccontiamo due storie legate all'aria. Sono legate all'aria ma in maniera diversa. Martedì scorso abbiamo raccontato la storia legata ad un volo acrobatico, quindi proprio pattuglia acrobatica, aerei a motore, eccetera eccetera eccetera. Questo invece è un altro tipo di volo, non ha a che fare col mondo militare, ha a che fare con la vita da civile di Lorenzo, che fa il suo mestiere e poi ha una grande passione per gli alianti, per il volo a vela. Buongiorno a tutti, Radio 24, voi siete qui, io sono Matteo Caccia. Oggi raccontiamo una storia, che è una cosa che facciamo tutti i giorni, un piccolo episodio della vita di chi ha voglia di scriverla e di condividerla con noi e soprattutto con chi ascolta. Se avete voglia di partecipare, continuate a inviare le vostre storie a voi siete qui @radio24.it. A breve avremo anche le date definitive, le date ufficiali del live, e ve le comunicheremo. Il live è, per chi non lo sapesse, per chi magari ascolta da poco per la prima volta questo programma, è semplicemente una festa finale, è una sorta di festa di fine d'anno di questo programma in cui raccontiamo alcune delle storie che sono arrivate. 349-238-6666, voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook del programma per comunicare con noi, Twitter invece è il mio, Matteo Caccia, oppure voi siete qui, R24. La storia di Lorenzo ha un titolo che ha dato lui stesso. Il titolo è il premio Lessi, dove per Lessi si intende il cane, ovviamente il ritorno a casa. Il premio è un premio che si inventano i suoi amici di Vola Vela, che gli consegnano quando lui riesce a tornare dopo un lungo e travagliato volo di ritorno a casa. Adesso ve lo racconteremo meglio perché lui lo spiega meglio di noi. Se vi è mai capitato però con qualunque mezzo, con un aeromobile ma anche a piedi, in bicicletta o con un treno, di fare un rocambolesco ritorno a casa, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Paolo, ad esempio, con il mio laser standard, che è un barchino a vela, è una piccola barca a vela, una deriva per esattezza, dopo una regata sul lago di Como, da Domaso, che è in cima, per chi non lo sapesse, a nord, sono tornato a Menaggio, che invece è giù, con vento contrario, tutto di bolina, cioè la roba più difficile che potete immaginare. Ci ho impiegato 4 ore con 3 prove di regata sulle spalle. Ero a pezzi alla fine, ma felice. E questo è l'esempio giusto, quello di Paolo, perché si parla di barcavela, mentre nella storia si parla di volavela, che sono anche in parte legati. E spesso i ritorni difficili sono quelli che devi fare quando c'è di mezzo la natura, che fa i fatti suoi, sostanzialmente. La natura da sempre fa i fatti suoi e sei tu che ti devi un po' adeguare a quello che lei decide di fare. Quindi, se vai in una direzione e poi devi tornare, o speri che lei ti dia una mano, oppure appunto sono fatti tuoi, devi trovare il modo per farlo. Aldo, dopo un viaggio in Norvegia ho perso tutti gli aerei perdibili, dovevo tornare in fretta, quindi ho noleggiato un'auto che si è fermata in autostrada, ho fatto autostop fino in Austria, ho preso un treno, un tram, un taxi e dopo 36 ore ero di nuovo a casa. 349-238-6666 oggi per raccontarci in piccolo, in 160 caratteri di SMS, sono 160 giusto? Twitter 140, SMS 160. La vostra mini storia. Serena, gita in bicicletta al parco del Ticino, zona nostra, Margherita. Inizia a grandinare, nessuno sa se è meglio fermarsi o correre al primo riparo. Corriamo verso un casale abbandonato, ma mio marito cade in bici, si rompe il polso. Chiamiamo un'ambulanza. Scusa, Serena. Chiamiamo ambulanza, dopo 6 ore di pronto soccorso siamo a casa. Cosa c'è da ridere? Niente, che di solito le robe rocambolesche fanno ridere. Non fa molto ridere, ma è sicuramente rocambolesco. C'è una storia di un ritorno a casa e soprattutto a un certo punto della storia che stiamo per raccontare c'è una voce misteriosa che appare dal nulla, ti entra nelle orecchie un po' come fa la radio ogni tanto e in qualche modo ti riporta a casa. Sarò banale, ma quello sembrava essere davvero un giorno come tanti altri, fatto di una sveglia, lavoro di corsa e così via. Ma ad un certo punto ricevo la telefonata. Lorenzo, giornatona, vieni. Ebbene sì, Marco, uno dei piloti più esperti del mio club, vista la magnifica giornata, che prometteva davvero bene, mi ha esortato, nonostante tutto, a lasciare ogni cosa e ad andare. Dove? A volare in Aliante. Dove, se no? L'imperativo della chiamata non mi lasciava possibilità. Mollo tutto e tutti. Corro a casa, prendo il necessario e mi fiondo in aeroporto. Montaggio del mezzo, controlli, acqua, cibo e siamo pronti a decollare. 5 bellissimi alianti bianchi allineati, 5 meravigliose macchine per volare che sembrano avere un'anima quasi. Si decolla, sono al primo e subito mi fiondo in avanti, verso nord, attirato come sempre in quella direzione, in cielo come in terra. Presto vengo raggiunto dagli altri compagni di volo che, in quanto ad esperienza e mezzi, sono di gran lunga più abili ed efficienti di me. Pivellino, che prima di allora solo una volta mi ero spinto oltre il Pasubio con il mio modesto Cirrus, rimesso a posto in garage dopo un lungo lavoro. La mia passione per il volo è nata fin da piccolo, quando iniziavo a costruire i miei primi aeromodelli. Intendevo farli volare. Ammassi di grandi cumuli iniziano a popolare il cielo. È davvero una grande giornata. I 4.000 metri di quota sono raggiunti presto, ma già io annaspo per stare al passo degli altri. Lascio le termiche sempre prima di quel che vorrei, pur di non perderle di vista, ma in questo modo mi trovo ad essere sempre troppo basso. Loro mi aspettano, silenziosi. Fuori dalla capottina in plexiglass, a 4.000 metri, la temperatura è di meno 12, ed io, con solo maglietta e pantaloncini, tremo dal freddo, sono congelato. Sotto di me la Val di Fiemme, la Val di Fassa, il Lago Rai, la Temar, Sella e Marmolada. Mi emoziono profondamente, mi viene da piangere. Non mi è possibile contenere la bellezza di quello che vedo. Nuvole sparse, ci perdiamo di vista, ci ritroviamo sotto un grosso cumulo e si riparte. Direzione il Grande Nord. Arriviamo in Valpusteria, meravigliosa come sempre, e qui iniziano i problemi. Il gruppo sceglie una rotta in un cielo terso di nuvole che si preannuncia senza termiche, come infatti accade. Ne farò le spese io. Frue a ovest, ci apriamo a ventaglio. Chi trova una termica, avvisa gli altri. Volare, cantare, sognare, nel cielo lassù, dipinto di blu. Io prendo la zona peggiore, inesorabilmente perdo sempre più quota e non c'è niente da fare. Mentre gli altri in qualche modo ce la fanno, io in breve mi trovo a girare sopra un capannone. Brunico è lì vicino. Valuto ogni possibilità, ma soprattutto valuto di cercare un campo in cui atterrare, possibilmente integri, io e il mio Cirrus. I compagni di volo pazientemente mi aspettano, vogliono capire se ce la farò, ma io mi vedo troppo male. Li esorto ad andarsene, che il ritorno è lungo e che io mi arrangerò. In cuffia, da uno di loro, che stimo molto, ricevo una frase che mi inorgoglisce. Lorenzo, che aplomb! Ed è proprio così, la situazione non è facile. Io ho pochissima esperienza di volo e, peggio di tutto, non ho mai fatto un atterraggio fuori campo con tutti i rischi che questo comporta, compreso il fatto che non avendo un motore ho una sola possibilità per atterrare, una sola chance. L'alternativa è il disastro. Ma io sono abbastanza abituato a gestire queste emozioni. Avevo solamente 180 ore di volo, che sono davvero poche, e è da sempre che mi confronto con queste situazioni nelle mie attività, appunto, in mezzo alla natura. Li chiamano sport estremi, per cui per me era una situazione nuova come pratica, ma abituato già a gestire la parte emotiva. E poi, all'improvviso, la radio gracchia qualcosa. Chi è sul mio capannone? È una voce con inflessione del luogo, stentorea quanto inaspettata, e irrompe nella mia solitudine. Incredulo, guardo di sotto, vedo l'edificio ma non chi mi parla. Come fa a sapere la mia frequenza radio? E poi penso che deve essere un pilota anche lui, magari si stava fumando una sigaretta e mi ha visto. Mi scusi, me ne vado appena posso, dico. Devi andare sui pendii del Kronplatz per risalire, non qui, mi dice lui. A me sembra impossibile raggiungerli con così poca quota. Non lo farei mai e poi mai. ma decido di fidarmi. Li raggiungo, ma non salgo. Il costone della montagna che devo per forza pennellare con passaggi sempre più vicini è molto irregolare. Viro per tornare a fare un altro passaggio e mi ritrovo quasi fermo. Rischio lo stallo con le rocce lì sotto, sarebbe la fine. Mi chiedo come mai non accada. Altra virata, altro prestallo, non so descrivere il senso di frustrazione e impotenza che provo. Non lì, non lì, vai ancora avanti, mi esorta il mio amico sconosciuto alla radio. E infatti trovo una piccolissima ascendenza che dopo un'ora di tentativi mi consente di scavalcare la montagna. Sono esausto, ma per fortuna con il sole in fronte mi sono scaldato un po'. Mi dico che ora è fatta, e invece niente da fare. Inizio una lunga solitaria discesa che mi porta di fronte ad una parete nera e impressionante. È il Catinaccio. Trovo un'autentica bomba d'aria che mi solleva come un fuscello. Vedo le persone del rifugio, ci salutiamo. E in breve sono a 4.000 metri. Di nuovo ho la quota per tornare a casa con relativa sicurezza. La mia vescica, dopo 7 ore di volo, non la sento più. Proverò poi cosa vuol dire il dolore di farla a gocce, piegato in due dal male. Alla fine di questo volo sono accolto dagli altri piloti festanti che alla cena di fine anno mi regaleranno, unico nel suo genere, il premio Lessi per la più tribolata storia di ritorno a casa. È un primissimo piano la foto che ci ha mandato Lorenzo e che trovate anche oggi, come al solito, sul nostro sito radio24.it, alla nostra pagina Voi siete qui. È un bel primo piano, credo sia un autoscatto, più tardi glielo chiedo. Ha gli occhi castani, i capelli molto corti, un filo di barba un po' incolta, assomiglia a un attore... Ma si potrebbe dire di tutti, probabilmente, non saprei nemmeno dire di chi. Ma soprattutto, appena appena tagliato di fianco a lui, un cane con l'aria simpaticissima. Pronto Lorenzo, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te, ciao. Come stai? Bene, bene, molto bene, grazie. Dove ti trovi? Sei al lavoro, sei a casa? Lavoro, sì, sì. Che lavoro fai, Lorenzo, me lo ricordi? Mi occupo di energie rinnovabili e prodotti e tecnologie per produrre e risparmiare energia. Ok, ma te ne occupi, vuol dire che sei un consulente, hai un'azienda? Sono un consulente energetico, una figura nuova, e mi hanno messo in mano un progetto veramente bello, organico, e che sto seguendo, molto molto figo. Che zona d'Italia segui? Io sono a Verona e seguo il Veneto. Ok, senti, e poi passiamo invece al racconto che mi incuriosisce moltissimo, sì. Voglio chiederti un sacco di cose. Sì. Nella foto è un cane quello che c'è nella foto, giusto? Sì, sì, è la mia cagnolina Lila. Ok, la Lila che è un meticcio, è un... È una bastardina che pensa che arriva da un sequestro per maltrattamenti e io la tengo. Com'è che è arrivata? L'hai presa il canile o te l'ha mandata? Ma è una storia lunga, mia sorella che segue tutto questo mondo di animali. Di animali, ok. Li ho trattati bene o male, per cui gioco forza che uno è arrivato anche da me. Ok, perfetto. veniamo all'Aliante, che altrimenti sì, detto pure. Volo a vela, giusto Lorenzo? Volo a vela, sì. Ok, io sono affascinato, dicevo, da questa cosa, perché avendo fatto un po' di anni in barca a vela, ho molti amici che sono passati dall'uno all'altro e mi dicono, guarda, è molto simile ad andare in barca a vela, semplicemente invece che essere nell'acqua e nell'aria, sei solo nell'aria, sostanzialmente. Sì, io aggiungo che acquisisci una terza dimensione, che non è poco. Certo che non è poco. Chiaro che è quella dell'altezza. Mi dici in due parole, proprio come l'Aliante for Dummies, come funziona un aereo che sta in aria senza motore? Beh, ci si ispira al volo degli uccelli tipo le aquile, i condor, gli uccelli che volano con le termiche, con l'aria calda che è generata dal sole che riscaldando le montagne comincia a salire e quant'altro. Il tutto inizia normalmente da un campo, un aeroporto, in cui un aereo a motore ci tira su e dopo arrivata la quota desiderata io mi sgancio e inizio il mio volo che può avere un carattere locale, durare che ne so, mezz'ora fino al volo di cui vi ho raccontato che è durato un giorno intero attraverso una cava- cavalcata delle Dolomiti. Quando parli di correnti termiche che, sì, o di bomba d'aria a un certo punto parli, no? che ti risolleva, come le si riconoscono, come le si cercano? Ma diciamo che normalmente l'aria calda, queste termiche, partono diciamo dalla pianura o dal fianco della montagna, e salendo normalmente l'aria raffredda e condensa dà luogo a quelle grandi nuvole cumuliformi che si vedono in primavera e poi in estate, e molto spesso lì chiaramente è il segno che c'è proprio una termica, perché okay, è segnata dalla base del cumulo che la termica stessa ha creato. Altre volte questo cumulo non c'è, per una condizione meteorologica particolare in cui c'è poca umidità, e allora si va a esperienza a naso e si sta più cauti, specialmente perché ricordiamoci che non abbiamo un motore noi. Ok, per cui insomma devi prendere quello che c'è nell'aria sostanzialmente. Assolutamente sì, c'è comunque tanto. Quanto tempo fa hai cominciato e come ti è venuta questo desiderio di fare vola vela? Ho iniziato dopo che ho smesso di fare un altro sport a cui tenevo molto, la canoa su torrente, sempre nei paesaggi alpini, e mi sono detto dai, mi metto a fare una cosa più tranquilla, e con mia moglie al sesto mese di gravidanza ho iniziato a fare un corso di volo a vela all'Aquila, e non ti dico l'inizio, insomma non è stato semplice trovarsi questi mezzi, che poi sono mezzi meravigliosi, ma insomma all'inizio fa una certa impressione, ma dopo è fantastico. Fa un po' paura, immagino, quando sei nel silenzio assoluto a 4.000 metri d'altezza, leggevo dal tuo racconto anche. Sì, sì, sì. In realtà no, la paura la provai all'inizio perché avevo un aliante vecchissimo, un tubi e tela, che faceva impressione vederlo. In realtà fa impressione anche a dirlo, tubi e tela, guarda. In realtà era quanto più di sicuro ci fosse. Gli alianti attuali sono delle macchine meravigliose, fatte in materiali compositi, con altissimi stati, sono delle aeromobili a tutti gli effetti. Certo, il tuo, in particolare il motore. Il tuo è un Cirrus, giusto? Sono andato a cercarlo ed è il tipico aliante a cui pensi quando pensi ad un aliante, insomma, un po' bombato, sì, dove c'è la cabina, e poi sottilissimo e con la pinna, col timone posteriore. Sì. Lorenzo, scusami perché non ho tantissimo tempo e voglio chiederti ancora un'altra cosa. A proposito di questo volo che ci hai raccontato, noi abbiamo scoperto chi era questo angelo custode sul tetto del capannone che ti dice vai a prendere aria là sotto la montagna. Avete scoperto? No, te lo chiedo, abbiamo scoperto chi è. Tu hai scoperto? Io so solo il suo nome, non l'ho mai conosciuto, si chiama Peter ed è un volovelista di quella zona che incredibilmente, non so ancora come ha fatto a sapere la mia radiofrequenza, a capire che c'era qualcuno sopra la sua testa, in grosse difficoltà, e è stato incredibile. Non l'hai mai visto, non l'hai mai cercato però lui? No, però dovrei un giorno interessarmi, in effetti. Senti, però se non ci fossi stato Peter, una soluzione l'avresti trovata, no? Un prato dove atterrare. Avrei trovato un prato in cui atterrare, ma sai, è un po' sempre un'incognita. Certo. Prendere un campo e metterci dentro con un aliante, insomma, non è proprio banale. Costa tanto fare un corso di aliante o comprarsi un aliante? Sai, non sono aggiornato sui prezzi, ma diciamo che i 3.500 euro per fare un corso di aliante ci vogliono tutti, qualcosa in più forse. La più parte vanno via in benzina, per fare tutti i decolli. Ah certo, la benzina dell'aereo che ti traina. Sì, e invece un aliante usato quanto viene via? Guarda, un aliante usato, per un aliante un po' discreto si comincia a dover spendere 25.000 euro almeno. Okay. Tieni conto che uno nuovo ne costa anche 10 volte di più. Va bene. Ma si vola già con tutti i crismi della sicurezza e con grande appagamento anche con queste cifre. Lorenzo, ti ringrazio molto. Era la prima volta che raccontavamo di un volo a vela ed è stato decisamente emozionante. Grazie ancora. Bene, grazie. Ciao, a voi. Grazie a presto. A voi. Ciao Lorenzo. Ciao Matteo. Ciao. 349-238-6666. Con Lorenzo abbiamo parlato appunto di vola vela e di alianti, però sono arrivati messaggi che raccontano di ritorni a casa come il suo, piuttosto rocamboleschi. Francesca: noleggio barca vela con fidanzato e la mia famiglia. Lui skipper esperto. Al ritorno dall'isola d'Elba verso Rosignano perdiamo l'elica. Le condizioni sono terribili. Invece che chiedere soccorso, lui si ostina a volere navigare a vela. Papà, mamma e sorelle stanno malissimo. Dopo 14 ore rientriamo in porto. Pochi giorni dopo la storia è finita. Ecco, più o meno non tutti i ritorni a casa sono così rocamboleschi, però delle volte capita. Pietro: il mio ritorno dall'Australia fu così rocambolesco che mi ci fermai e alla fine ci restai a vivere per 3 anni. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Vi ricordo di scaricare il podcast dal sito di Radio 24, dalle varie app che trovate, in particolar modo quella di Radio 24. Ascoltateci in diretta oltre 20 la mattina alle 5 e 15 in differita. Grazie ancora a Gianmarco Ferronato, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hina e grazie soprattutto a Lorenzo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Riccardo, vivo a Milano, la storia di domani è la mia e parla di Pivi. Questa è la mia storia e io sono qui.